Radio 24 Reportage. Soweto, una township nel pallone, di Dario Ricci. La banda musicale, le immancabili vuvuzelas, quelle trombette che scandiscono il ritmo della passione calcistica dei tifosi sudafricani, l'entusiasmo di una città e di un paese pronto ad ospitare a partire dall'11 giugno 2010 la prima coppa del mondo di calcio organizzata nella storia dal continente africano. Atmosfere e suoni che arrivano dall'Orlando Stadium di Soweto, la township di Johannesburg, Sudafrica, durante uno dei tanti derby calcistici cittadini, quello tra i Kaizer Chiefs e i Moroka Swallows. Un luogo simbolo di Soweto e del Sudafrica, l'Orlando Stadium. Era questa, nel giugno 1976, la meta della pacifica manifestazione di protesta studentesca che la repressione del governo segregazionista di Pretoria trasformò in strage. E a una manciata di chilometri da qui sta sorgendo il Soccer City Stadium, sulle ceneri di quell'impianto che nel 1990 ospitò uno dei primi discorsi alla nazione di Nelson Mandela, libero dopo 27 anni di prigionia. Shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another? Basta poco, insomma, per capire che il calcio e il mondiale che sta per arrivare siano per il Sudafrica qualcosa più di un gioco, anche se molte cose sono cambiate e stanno cambiando. Lucas Radebe, ex capitano del Sudafrica Mondiale 1998 e 2002 e campione d'Africa in casa nel 1996, ci racconta come è cambiato il calcio dagli anni 70, quando da bimbo giocava nella sua Soweto, ad oggi. We had rugby, which was predominantly white sport, and cricket. Most of us followed the game. Anche allora c'erano il rugby e il cricket, che erano gli sport più popolari tra i bianchi. Ma tra noi neri, dalle township, il calcio era sicuramente lo sport più popolare. Giocavamo su campetti improvvisati, polverosi, inventandoci porte e traverse. Le nostre maglie erano i sacchi usati per il grano. Li tagliavamo, ci disegnavamo il numero sulle spalle e giocavamo così. Eravamo rinchiusi in confini precisi, che non ci era permesso superare. Vivevamo segregati, divisi dai bianchi. Quando tutto questo è finito, abbiamo finalmente potuto esprimere il nostro talento, permettere ai nostri migliori giocatori di andare all'estero, a giocare in Europa e creare così una squadra nazionale competitiva. Oggi il fiore all'occhiello della Johannesburg che si appresta ad ospitare i campionati del mondo è proprio il Soccer City Stadium, qui a Soweto. Proviamo a dare un'occhiata dentro al cantiere. Quello che sentite sono i rumori, le voci degli operai che stanno lavorando qui all'ingresso del Soccer City Stadium, 91.500 posti a sedere per quello che è il gioiello, per quello che sarà il gioiello della Coppa del Mondo 2010. C'è anche un pizzico d'Italia, anzi una parte importante, perché la copertura, il tetto di questo stadio è stato realizzato da una ditta italiana di Pordenone. Da sottolineare poi la forma del tutto particolare di questo stadio. I colori e la forma stessa richiamano il calabash, quello che è un vaso tipico sudafricano che viene utilizzato per bere la birra tradizionale delle township. Un omaggio ulteriore e particolarmente significativo al Sudafrica che si appresta ad ospitare la prima Coppa del Mondo africana nella storia del calcio. Dentro lo stadio tutto richiama Johannesburg, la sua storia, la voglia di un intero paese di sentirsi all'altezza di quel mondo che gli ha assegnato un onere e un onore tanto grande. Dal tunnel d'ingresso, dalla forma di miniera, perché Johannesburg è anche la città dell'oro, viste le tante miniere che la circondano, a quelle 9 striature di seggiolini colorati di grigio sulle tribune, che indicano ognuna la direzione delle altre città sedi della Coppa del Mondo. La decima linea, invece, quella punta a Berlino, sede della finalissima del 2006. L'uomo è incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo. È Grosso. Fabio Grosso. Sta per partire Grosso. Grosso! Rete! Rete! Campioni del mondo! Per chi ci lavora notte e giorno per completare i lavori, il Soccer City Stadium è già domani, è già futuro. Sid Clark è il responsabile del progetto. Occhi chiari, casco protettivo d'ordinanza ben calato sulla testa, visto che quello che fra pochi mesi sarà lo stadio, oggi è ancora un cantiere che è in continua evoluzione, così Clark ci spiega come diventerà il Soccer City una volta conclusa la Coppa del Mondo. We have a major exhibition center across the road. Sarà un impianto polifunzionale, non dedicato solo al calcio, ma anche ad altri sport come il rugby, e ospiterà concerti, eventi internazionali. E non sarà circondato da attività commerciali, ma da un'accademia dello sport, da uno spazio museale e da un'area interamente dedicata ad aziende dell'high tech, proprio nella zona che durante il mondiale ospiterà il centro TV internazionale. Questa è l'eredità che vogliamo lasciare al Sudafrica. So we've tried everything to be multi-purpose and multifunctional. Clark è ben consapevole che quella che si giocherà tra Soweto e Johannesburg e nel resto del paese è in realtà una partita tra il passato e il futuro di un'intera nazione. And this is the transition. Questo è il momento della transizione fra il vecchio Sudafrica e quello verso il quale stiamo andando ora. C'è Johannesburg, la città residenziale bianca laggiù, e qui c'è Soweto, la township nera, e in mezzo una terra di nessuno. Quello che vogliamo fare è unire queste due aree, creare un'unica città da quelle che oggi sono invece due città diverse e ancora separate. Cambiare senza perdere le proprie radici. Questo è l'obiettivo del Sudafrica, come ci ricordano le musiche che scandiscono le giornate per le strade di Soweto. Cambia il paese, quindi, cambia anche il calcio e il suo ruolo sociale. E ancora Lucas Radebe, che ora gestisce una scuola calcio per bambini proprio a Soweto, a spiegarci come il futuro del football sudafricano non sia poi così scontato. Now it's a pity that the way è un peccato vedere come oggi il calcio non sia più una priorità per i giovani sudafricani, anche nelle township. Ci sono altri interessi, altre distrazioni. Il computer, i videogiochi, lo sviluppo edilizio che cancella i campetti da calcio per tirar su le case. E poi, a differenza di quanto accade per rugby e cricket, il calcio non ha più un campionato scolastico giovanile, né attività scolastica per i bambini più piccoli. Si comincia a giocare tardi, intorno ai 13-14 anni, mentre gli altri sport a quell'età raccolgono già quanto seminato prima. La Coppa del Mondo 2010 rimane però un grande sogno, una grande opportunità per l'intero continente. Ancora Radebe. È una grande opportunità per unire il paese, il continente, tutti i popoli, ma è anche una grande responsabilità che il calcio deve dimostrare di sapersi prendere. Il calcio ha una sua precisa responsabilità sociale, deve aiutarci a far crescere insieme i giovani, i cittadini, le persone. Abbiamo sogni ambiziosi e il calcio può aiutarci a realizzarli. Sappiamo quanti soldi siano in circolazione nello sport business, quanto le star del soccer si considerino al di sopra del bene e del male, quasi degli intoccabili. Ma la realtà è una sola, la carriera di un calciatore è davvero breve. E cosa saremmo allora senza i tifosi? Cosa fare se non restituire alle nostre comunità quanto loro stesse ci hanno dato, permettendoci di arrivare dove siamo arrivati? Così il legame tra noi campioni e i nostri supporter rimarrà forte e saldo. Il calcio, sport dei neri, il rugby dei bianchi. Lo sport sudafricano porta ancora i segni e le ferite del regime segregazionista dell'apartheid. Per provare a superare steccati e divisioni, la palla ovale ha introdotto, tra le polemiche, il sistema delle quote, che garantisce la presenza di giocatori di colore nella nazionale sudafricana di rugby, campione del mondo. Il sistema potrebbe essere introdotto anche nel calcio per salvaguardare la presenza di calciatori bianchi. Mark Fish, bianco, compagno di nazionale di Radebe ed ex difensore della Lazio, non è d'accordo. Purtroppo nel nostro paese sport e politica sono spesso intrecciati, sovrapposti. Sfortunatamente è la pesante eredità della nostra storia, del regime segregazionista. Così stiamo sempre a discutere se ci sono abbastanza neri nel rugby o troppo pochi bianchi nel calcio. Secondo me dovremmo pensare al talento e basta. Se uno è bravo abbastanza per giocare, allora deve giocare e basta, senza star lì a guardare il colore della pelle o cose di questo tipo. Problemi questi che non basterà certo la Coppa del Mondo 2010 a risolvere, ma è già importante che siano sul tavolo di discussione per una democrazia che ha appena, non dimentichiamolo, 15 anni d'età e che spera nel 2010 di poter festeggiare l'arrivo della Coppa del Mondo con il suo padre fondatore, Nelson Mandela, oggi 91enne, sulle tribune del Soccer City Stadium di Johannesburg. Del resto, non fu proprio l'abbraccio tra un Mandela con la maglietta della nazionale di rugby e il capitano del Sudafrica campione del mondo, François Pienaar, a sancire nel 1995 la nascita del Sudafrica democratico e multiraziale. Un momento indimenticabile per milioni di sudafricani e per lo stesso Lucas Radebe, che il 3 febbraio 1996 ricevette proprio dalle mani di Mandela la Coppa d'Africa che celebrava il successo dei Bafana Bafana proprio in quello che oggi è il Soccer City Stadium di Johannesburg. Nelson Mandela is bringing... Nelson Mandela ha permesso al calcio di fare il grande salto di qualità. Ha dato a tutti noi un'opportunità. Io non sarei mai potuto andare a giocare in Inghilterra, ad esempio, senza il suo grande sacrificio. Dobbiamo essergli tutti grati, e non solo per questo. Guardate cos'è il Sudafrica oggi e cos'è lo sport sudafricano. Pur tra tante difficoltà, c'è una sempre maggiore integrazione. Stiamo camminando verso il futuro. È tutto grazie a Mandela. Ho davanti a me l'immagine di lui con la maglietta degli Springboks, del rugby, e con la nostra maglietta quando vincemmo i mondiali di rugby e la Coppa d'Africa di calcio. Che emozione! Il nostro più grande augurio è che questo grande uomo possa essere con noi a Johannesburg fra pochi mesi per festeggiare insieme l'arrivo della Coppa del Mondo nel nostro Sudafrica. That's our greatest wish, you know, for the big man.